Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Cosa rappresenta oggi la Germania per l'Europa? Un grande paese ormai definitivamente affrancato dalla pesante eredità delle grandi tragedie del Novecento, la più grande potenza economica del continente, in grado di esercitare quella leadership all'interno dell'Unione Europea che le spetta, oppure un problema per l'Europa? Un problema per le scelte della Germania in materia di politica economica, che sono improntate, come sappiamo, all'austerità e al rigore. Comunque la si veda, l'Europa non può prescindere dalla Germania e la Germania non può prescindere dall'Europa. E per questo quanto mai utile, fuori dagli stereotipi e dalle polemiche tutte politiche, capirne di più e farlo proprio ora che la Germania, celebrate le elezioni politiche, sta per affrontare le sfide aperte dal dopo Brexit, ma anche dalla linea che sta assumendo sul versante degli equilibri geopolitici l'America di Donald Trump. Lo facciamo questa sera in compagnia di un libro fresco di stampa pubblicato da Donzelli dal titolo Germania Europa, due punti di vista sull'opportunità e i rischi dell'egemonia tedesca, libro scritto da Angelo Bolaffi e Pierluigi Ciocca. Pierluigi Ciocca, economista, studioso, ha coordinato tra l'altro la ricerca economica della Banca d'Italia, di cui è stato vice direttore generale dal 1995 al 2006, e nostro ospite questa sera. Buonasera e benvenuto, dottor Ciocca. Buonasera a voi. Ascoltiamo questo passaggio del suo saggio, che è contenuto nel libro, dal titolo La Germania debitrice ieri, creditrice oggi. Tra i maggiori paesi dell'Occidente, la Germania spicca per l'inaudita violenza dei traumi economici e ancor più sociali e umani vissuti nella prima metà del Novecento, scanditi dalle due guerre mondiali, dalla Germania provocate e perdute. Se si guarda alla storia economica e finanziaria della Germania moderna dalla Grande Depressione del 1929, una chiave interpretativa è quella dei rapporti debito-credito verso l'estero. Quella tedesca era negli anni 20 un'economia malata, fragile nei fondamentali, particolarmente esposta all'indebolimento ciclico. Il settore primario era gravato di debiti. La recessione divenne valanga nel 1929-32, con il PIL in caduta del 37% e del 70% per quel che riguarda gli investimenti in macchinari, costruzioni e impianti. La bilancia dei pagamenti di parte corrente della Repubblica di Weimar fu strutturalmente passiva. Dunque questa, dottor Ciocca, era la situazione economica della Germania all'avvento del nazismo. Bene, come si fece fronte a questa situazione? Questo mio ripercorrere, in sintesi, la storia economica tedesca del Novecento, sì, si collega ai problemi dell'oggi, estraendo da quella vicenda storica due convincimenti che si sono radicati nel popolo tedesco. Da un lato la inflazione, dall'altro lato il debito, e segnatamente il debito estero, sì, sono esiziali e rendono la nazione non solo economicamente più debole, ma politicamente, sì, più debole. Debole, che in tedesco equivale a colpa, se, con, sì, con lo stesso questo termine. C'è questa, no, ricorrente assimilazione. Sì. Ma l'inflazione non c'è più. Certo. Da ormai da decenni in Germania, e certamente non c'è più dal 1960 il debito della Germania verso il resto del mondo. Non di meno, come accennava la pagina prima letta, la Germania persegue da anni questo indirizzo di governo dell'economia che lei ha definito di austerità o di rigore, sì, che ha delle ripercussioni. E infatti il libro sostanzialmente si divide in due saggi. Il primo, quello di Angelo Bolaffi, è una disamina molto interessante della Germania, ma dal punto di vista, come dire, dell'osservatore, dello studioso che guarda ai grandi progressi fatti dalla Germania, alla sua egemonia culturale, politica, e al fatto che comunque ormai la Germania è ampiamente affrancata dal suo passato Il suo saggio invece pone più le questioni dal punto di vista economico e in particolare, ecco, questo è interessante perché la Germania è stata per molti anni nel Novecento un paese debitore. Adesso ha una esposizione dal punto di vista della bilancia, cioè del rapporto commerciale con gli altri paesi, che addirittura teoricamente la potrebbe esporre a una procedura di infrazione secondo le regole europee. Secondo le regole europee, certamente. Registra l'economia tedesca dall'entrata nell'euro, grosso modo, sì, un surplus crescente in valore assoluto rispetto al prodotto interno lordo del paese nella bilancia commerciale, nell'interscambio di merci e nello stesso saldo di bilancia dei pagamenti di parte corrente. Corrisponde di necessità a questo avanzo di parte corrente un accreditamento su base netta dell'economia tedesca nei confronti del resto del mondo. Insomma, i paesi che importano dalla Germania più di quanto non esportino devono saldare questo squilibrio cedendo attività finanziarie, ma principalmente indebitandosi con la Germania. Quindi, lungi dall'essere più debitrice, la Germania è oggi creditrice del resto del mondo, in modo particolare dell'Europa, per una cifra stimabile in 2.000 miliardi di dollari, o il 60% del PIL. Ha senso? E infatti, non a caso, il suo saggio si intitola La Germania debitrice ieri, creditrice oggi, ma appunto tornando un po' ancora a ieri, è decisivo anche alla luce di quello che lei scrive, quello che accade dopo il 1945, quando di fatto si stabilisce che la Germania è fondamentale per ristabilire gli equilibri geopolitici in funzione antisovietica, siamo in quasi guerra fredda, e dunque rapidamente la Germania rientra nel gioco, chiamiamolo così, e rientra nel gioco anche grazie agli aiuti del piano Marshall. Agli aiuti del piano Marshall e alle straordinarie capacità produttive di quel sistema di imprese e di quel popolo. Ecco. E quindi la crescita molto rapida dell'economia tedesca negli anni 50, negli anni 60. Esatto, e poi però si arriva a subito l'evento più importante del secolo scorso, cioè la caduta del muro, la riunificazione, e quindi è qui che, da quel che si capisce, parte il problema, è perché da allora e dall'ingresso della Germania nell'euro, dalla parità decisa, che a quel punto si determina questo squilibrio. E andrebbe sanato, ma come? Ecco, questo è il punto di fondo che forse andrebbe chiarito. La posizione creditoria netta con la quale la Germania federale affronta il problema della riunificazione servì per fare fronte agli enormi impegni di spesa che ci si dovette accollare negli anni 90. Certo. E il ritorno ad un attivo di bilancio e pagamenti cospicuo è un accreditamento crescente data dai primissimi anni di questo millennio. E arriva oggi alle cifre a cui prima accennavo. Ora, il mio punto di domanda... Sì. Rivolto agli amici tedeschi è il seguente: dal punto di vista strettamente economico è razionale tutto ciò? Questo surplus di bilancia commerciale di parte corrente scaturisce sì dal made in Germany, dalla qualità alta sempre delle produzioni tedesche, scaturisce anche da un qualche progresso ma limitato della competitività di prezzo di quelle merci, ma scaturisce soprattutto dal basso livello della domanda interna, dell'assorbimento di risorse che consumi e investimenti interni sprigionano. E quindi ci vorrebbe un cambio anche di politica economica. Adesso quindi c'è un problema di impostazione di fondo. I dati che possono interessare i nostri ascoltatori sono due. Negli ultimi 15 anni il risparmio rispetto al reddito in Germania è salito dal 22 al 28%, sì, mentre l'investimento è rimasta, oscillato intorno al 19%. Le esportazioni sono salite più delle importazioni, di qui l'avanzo e la posizione creditoria netta. Questa condizione comporta dal punto di vista economico delle perdite, delle negatività a mio avviso, perché l'economia tedesca avrebbe potuto crescere ben più dell'1,5% negli ultimi 15 anni se la domanda interna per investimenti in particolare fosse stata spinta anche attraverso il bilancio pubblico. Certo. La Germania non avrebbe ceduto risorse reali al resto del mondo attraverso questo spaventoso eccesso di esportazioni sulle importazioni, e questo eccesso significa beni fisici che vengono trasferiti all'estero. Inoltre, su quegli investimenti all'estero, sui 2.000 miliardi di dollari di posizione creditoria netta, negli ultimi anni alcuni economisti hanno stimato perdite per circa 600 miliardi. E quindi qua... L'ultimo punto riguarda il grande problema dei movimenti di lavoratori verso l'Europa e in Europa. L'austerità che la politica economica tedesca esporta anche nel resto d'Europa contribuisce a far sì che sia alto il tasso di disoccupazione in Spagna, in Francia, in Italia, in Grecia. È quindi ovvio che chi migra dall'Africa non può pensare di trovare lavoro in Spagna, in Francia, in Italia, in Grecia, ma tende a cercarlo in Germania. Questo, la cancelliera è stata straordinaria nell'aprile a quasi 1 milione di immigrati. Sì, ma questo evidentemente crea un problema. E questo evidentemente crea un problema. La pressione potenziale di emigranti sulla Germania che si ridurrebbe qualora i paesi, come dire, rivieraschi dell'Europa mediterranea crescessero. Bene, dottor Cioc, la devo fermare, abbiamo esaurito il nostro tempo, la ringrazio molto per essere stato con noi. Il libro, grazie, ricordo, Angelo Bolaffi e Pierluigi Cioc, Germania e Europa, due punti di vista sulle opportunità e i rischi dell'egemonia tedesca. Grazie ancora e buona serata.